Radio 24 Reportage. La vita che vorrei. Storie dal campo rom di Via Novara. Di Cristina Carpinelli. Piuttosto che da soli è meglio tanta gente. Se non voglio star da solo non devo fare prepotente. Con i soldi del successo cambierò ciò che non va. Ma stare in compagnia è nel mio DNA. Piuttosto che da soli è meglio tanta gente. Se non voglio star da solo non devo fare prepotente. Con i soldi del successo cambierò ciò che non va. Ma stare in compagnia è nel mio DNA. Sei libero di uscire dal campo, ma quando ci esco cantando. Stiamo Questo è un pezzo rap scritto e cantato dai bambini e dai ragazzi del campo rom di Via Novara a Milano. Si intitola Vita da rap e parla di una vita al campo, tra ratti, immondizia e sgomberi. Ma è una canzone che ha tanta speranza, gioia e racconta bene la bellezza del vivere assieme. Sono tanti alberi, boschi e prati, ma quando esco qua ci sono i ratti affamati. Saremo ricchi e famosi, diventeremo grossi, ma ce ne andremo in giro come Vasco Rossi. Quando cresceremo andremo in TV, ma ci andremo solo perché abbiamo le... La vita che vorrebbero le famiglie che vivono nel campo rom di Via Novara è una vita fatta di cose che a noi sono garantite. Una casa calda, l'acqua potabile. Invece quello che hanno è una baracca, la stufa alimentata con la legna che le donne vanno a cercare di giorno, tanta fatica. Una fatica che tutte le donne che incontro mi raccontano. Vogliamo vivere come voi, italiani, se... perché non si può andare a vivere sulle strade, dormire sotto i ponti come fanno tutti gli altri. Cioè, noi siamo tutti in regola con i documenti qua. Ma voi siete in regola con i permessi? Con sì, sì, siamo tutti in regola. Da dove venite? Da quale paese di origine? Cioè... Dal Kosovo. Qua, in questa casa, ci sono tanti bambini, c'è una stufa a legna. Cioè, come fai tu? Vai a cercare la legna, spacca la legna e ti riscaldi. C'è la stufa che... mette fumo, diventa tutto nero, che fa male pure ai bambini, che gli entra nella bocca. Però non avete una cosa, un'alternativa, non c'è, perché qui non c'è riscaldamento. No, è solo l'unica cosa, l'unica possibilità che ti riscaldi è questa, la stufa. E l'acqua, il bagno, ce l'avete? Sì, ce abbiamo l'acqua, però fredda, non è calda, pure il bagno. Quindi è una vita comunque faticosa per te che sei mamma, cioè preparare tutte le cose, l'acqua calda per i bambini, tutto molta fatica? Sì, molta fatica, sì. Innanzitutto per le donne che è molto faticoso, per tutte le donne. Parlo per tutta la parte delle donne, che questo è faticoso. Perché dici per le donne è più faticoso? Perché devi andare a spaccare la legna. Faticoso non è come la vostra cucina che ci avete la calda acqua... È così, è un'altra vita. Vivono nel campo rom di Via Novara a Milano. Il campo è il più antico campo attrezzato d'Italia, ma ormai di quel che era il progetto oggi non resta quasi nulla, come ci racconta Elena Gagliardi, un'educatrice della Caritas che nel campo lavora. Io vengo minimo una volta alla settimana, poi a volte più di una volta alla settimana. Però li vedo qui al campo, perché poi li vedo... più o meno tutti i giorni della settimana, però magari gli altri giorni ho gli accompagnamenti, quindi li vedo fuori dal campo e siccome la maggior parte sono comunque piuttosto autonomi nello spostarsi, ci troviamo magari alla metropolitana o da qualche parte per strada o direttamente sui posti quando sanno già dove dobbiamo andare. E che progetti curi tu, cioè quando li accompagni, cosa fai? Perché ho sentito che adesso facevi anche nell'altra casa riferimento a una sorpresa, portare in biblioteca una bambina, cosa fai? Dunque, io la maggior parte delle ore le ho sulle donne, o comunque, cioè sulle donne perché le ho sugli accompagnamenti più diciamo sanitari o sociali, quindi a servizi sociali... E cose di questo tipo e quindi poi le persone che di solito accompagno sono donne, un po' perché gli uomini se devono fare cose di questo tipo sono un po' più autonomi e non si fanno accompagnare giustamente, un po' perché spesso se si tratta di seguire gravidanze o richieste di contributi, assegni di maternità, cose di questo tipo. Un po' perché tante delle cose Non so, perché anche gli accompagnamenti per i bambini, vaccinazioni, sono le mamme di solito che ci pensano, quindi accompagno loro. E poi ho anche però delle ore sul progetto sui minori, e quindi, quindi poi seguo alcuni ragazzini delle medie. Quante persone vivono in questo campo adesso? Dunque, in questo momento sono una decina di famiglie. Il campo è molto molto vasto, cioè anche sì. Gli altri sono già andati via? Sì, quando io sono arrivata nel 2004 c'erano circa 200 persone, di cui metà minori. Il campo era pieno. Adesso la maggior parte, tante famiglie sono uscite, ma rimangono in pochi. E questo comporta anche il fatto che per esempio si sia aggravato molto il problema dei topi o degli scarafaggi, perché ovviamente essendoci tanti container vuoti, tante casette che sono state buttate giù e lasciate qui le macerie, i topi aumentano. Adesso è un problema serio, perché sono aumentati molto. E si vedono anche di giorno, entrano nelle case? Sì, sì, sì, sì. E ci sono stati anche dei casi di adulti e anche un paio di bambini che sono stati morsi o comunque anche solo graffiati dal topo, non è tanto diverso dall'essere morsi, quindi pronto soccorso e febbre, comunque dei bambini... Bambini sono stati anche, in particolare uno me ne viene in mente, che è stato anche abbastanza male per un paio di giorni. Qua cosa succede adesso invece? Per l'Expo qui verrà tutto raso al suolo e smantellato, sia il centro d'accoglienza di fianco che il campo, e credo per fare un parcheggio o qualcosa del genere. Il campo di Via Novara, con l'inizio dei lavori per l'Expo 2015, verrà smantellato. Era stato realizzato per decisione dell'amministrazione comunale nel 2001 per dare ospitalità a Rom, kosovari e macedoni profughi della guerra dei Balcani. Molte famiglie nel corso degli anni sono riuscite a trovare alloggi dignitosi. Per quelli che restano però le difficoltà sono moltissime. Fino all'estate scorsa esisteva una convenzione con il comune di Milano che garantiva l'accompagnamento delle famiglie del campo. Oggi quella convenzione è scaduta e il comune non ha intenzione di rinnovarla. Per ora ad aiutare le famiglie ci pensano gli operatori come Elena, che lavorano con Caritas e col consorzio Farsi Prossimo. Entro l'estate però il campo sarà distrutto e per queste famiglie si prospettano difficoltà gigantesche, con il rischio che saltino anche i progetti di integrazione e che si isolino ancora di più famiglie che già sono in difficoltà. Se ci offrono qualcosa, qualche appartamento, qualcosa. A voi avete avuto qualche indicazione? Vi hanno detto dove potreste andare coi bambini? Tu aspetti anche un bambino? Sì, io ce ne ho tre. Ma sì, protezione civile hanno detto. Protezione civile. Quindi sì. Non una casa, uno spazio dove poter stare per un po', però non per sempre. Loro dicono per un po', però c'è l'altra gente che resta un anno, due anni in protezione civile. Non è che viviamo bene bene qui, però vabbè, aspettiamo i documenti e ce ne andiamo da qui. Tu stai pensando di andartene? Sì, certo, non possiamo vivere più qui 7 anni. Oh. Perché dici come i cani, cos'è che le cose che... Ma non siamo bene qui, ci sono i topi, abbiamo freddo, non si vive così. Quanti bambini hai tu? 4. 4, tutte femmine? No, un maschio e 3 femmine. Famiglie numerose, fatte di bambini svegli e simpatici e ragazzi che vanno a scuola e hanno dei sogni. Nel campo siamo cresciuti, cioè va bene, però è una vita, cioè non è una vita bella. Cioè sempre nel campo. Ma tu hai anche amici fuori dal campo? Sì, della scuola, sì. Perché vai a scuola? Che cosa fai? Faccio la prima superiore, faccio meccanico. E lì come ti trovi? Cioè, ti sei inserito bene o c'è qualcuno che invece ti tratta diversamente perché vivi in un campo? No. Cioè, a loro, cioè, non so, piace perché sono nel campo. Dicono che posso fare tutto quello che voglio, così cosa, ma non è così. Il tuo futuro come lo vedi? Beh, vorrei essere qualcuno, cioè, sa cosa vorrei essere io? Cosa? Un calciatore. Ma giochi bene a calcio? Sì. E quali sono i tuoi miti del calcio? Dico tutti quelli che... El Shaarawy, Cristiano Ronaldo, Boateng, Ibra e Balotelli. Il Dipartimento Roma and Travelers, Rom e Camminanti, l'ufficio nato nel 93 a Strasburgo nell'ambito del Consiglio europeo per fronteggiare la questione Rom, ci conferma che il senso di abbandono di una politica di assistenza per i Rom è diffuso in tutti i paesi europei, anche se negli ultimi 20 anni le cose sono migliorate e il Consiglio d'Europa se ne sta facendo carico sul fronte dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e in funzione dell'integrazione sociale. Negli anni, dunque, attraverso numerose raccomandazioni europee, ad esempio sulle condizioni abitative e sulle condizioni economiche e lavorative, si è cercato di dare almeno una cornice di riferimento e qualche linea guida ai vari stati per gestire l'emergenza Rom. Buone intenzioni, ma scarsi risultati. L'Italia, infatti, è una delle ultime nazioni europee a stare facendo realmente qualcosa. Nonostante molti Rom e Sinti vivano in Italia da decenni, ad esempio, queste persone non hanno la cittadinanza, col risultato che moltissimi bambini Rom nati in Italia risultano apolidi. Molti di questi bambini non vanno a scuola e non hanno accesso all'educazione e non sono riconosciuti come minoranza linguistica. Nel mondo ci sono circa 40 milioni di Rom, quasi la metà vive in India, 1 milione circa vive negli Stati Uniti, gli altri sono in Europa. Molti tra questi hanno avuto da ragazzi sogni e desideri di una vita normale, ma pochi sono riusciti ad abbandonare i topi e la miseria. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.